Angela Mastronardo di Free Assange Bologna. Ciao, buonasera. Buonasera, ciao. Poi abbiamo Fulvia Panza di Free Assange Bologna, anche lei. Buonasera a tutte e a tutti. Non ti vedo, ma ti sento. E poi abbiamo Serena Piccinini. Buonasera. Buonasera a te. E la vignatura della Maison, la vignatura. Buonasera a tutti. Adesso poi vi spiego perché tutte e quattro sono qui. Tutte e quattro sono qui innanzitutto perché abbiamo mancato l'opening di Serena, della mostra di Serena che sta succedendo alla Maison, la vignatura. Allora, dove partiamo? Allora, prima dobbiamo capire che cos'è la Maison La Vignatura, poi, dopodiché parliamo di Serena, poi dopo passiamo anche a Julian Assange. Insomma, ci sono due realtà abbastanza lontane una dall'altra, ma poi non così tanto. Non così tanto perché in fondo si tratta sempre di parlare di arte e di libertà, che sono due temi a me molto cari. La Vigna, raccontaci tutto di chi sei, cosa fai e perché. Oddio, che cosa difficile. Sì. Faccio moda tragicamente da 30 anni, dico tragicamente perché vuol dire che sono vecchia. Ora praticamente lavoro insieme a mia figlia, che è molto più giovane di me, Cecilia, e quindi insieme abbiamo creato, diciamo, dal mio DNA, che è stato, sono stata una dei giovani creatori degli anni 90, diciamo, mm-hmm, del panorama italiano. A un certo punto ho sentito che la moda, per come l'avevamo fatta noi, era finita. Io sono sempre stata una che ha voluto a tutti i costi continuare con il Made in Italy, ma il Made in Italy quello vero, cioè quello fatto dalle donne italiane che tagliano, che cuciono e che con cui collaborare, dai tessuti italiani, eccetera, ed è diventato ormai molto faticoso sopravvivere in questo contesto. Immagino. E quindi a un certo punto abbiamo deciso di cambiare il nostro orizzonte, e quindi di rinunciare a quella che era la distribuzione tradizionale, che passa attraverso department store, boutique, eccetera, e di diventare piccoli, però fare il nostro prodotto in una cornice che ci piacesse. E quindi abbiamo aperto piccoli ma belli, un po' come i brutti ma buoni, con, esatto, i biscotti, no? Piccoli ma belli per quelli a cui piacciamo, perché certo, poi magari anche gente a cui non piacciamo, ma comunque facciamo un prodotto, diciamo così, di qualità e di Made in Italy. Abbiamo un luogo, siamo fortunate, abbiamo un luogo molto bello in zona Castiglione, una vecchia villa degli anni 50, un posto che, meraviglioso, che dietro ai giardini Margherita, che fu costruita dal mio nonno, e quindi insomma anche una, diciamo, una matrice, contiene il mio DNA anche in altro senso, e quindi tutto il piano terra è stato dedicato appunto alla Maison. Siccome da tutta la vita io sono un'appassionata di arte, e senza essere una, come si può dire, né una curatrice né una gallerista né niente, però sono appassionata, mi piace condividere, capito? E quindi mi è sembrato bello e giusto dare dare disponibile quello che è il nostro spazio a una serie di artiste, tutte meravigliose, tutte donne, mm-hmm, perché il nostro è un mondo al femminile, e che hanno voluto in un qualche modo esporre da noi e con noi, creando una sinergia tra quella che non è arte, perché la moda non è arte, lo dico sempre, ma comunque è un'espressione di alto artigianato, quindi un qualcosa che dalla moda, dall'arte attinge e dà, e le donne in questo sono sempre molto più ricettive, molto più generose, e quindi con molte artiste, di cui l'ultima è Serena, che io amo particolarmente perché ho un mondo onirico fantastico, veramente. Avevamo avuto Valentina Daccardi qui a raccontarci la sua mostra da te. Sì, abbiamo avuto... tu non potevi quella volta, dunque. Abbiamo avuto Valentina Daccardi, abbiamo avuto Marina Gasparini, abbiamo avuto Mirta Tagliati, Sergio Veduti, insomma è stato un bel viaggio, veramente un bel viaggio, capito, con tante artiste straordinarie, io ne sono molto grata e orgogliosa. Beati come rane su una foglia di ninfea, che è il titolo della tua mostra. Esatto. Raccontaci, Serena Piccinini, artista pluripremiata, dice il comunicato stampa. Sì, allora il titolo della mostra parte da un libro di un autore che io amo tanto, Tom Robbins. E questo libro è molto difficile capire di cosa parla, perché c'è un fulcro centrale della protagonista e accadono tantissime cose, tantissimi incontri con personaggi e creature molto bizzarre. E così questa mostra, lei è un po' una sorta di Alice che si lascia trasportare dai cambiamenti, da questo mondo che va avanti, va indietro e cambia in continuazione. E anch'io mi sento un po' come Alice. E questo libro parla di natura, come la mia mostra, e raccoglie una serie di installazioni, alcune pensate appositamente per lo spazio di Lavinia. È stata una bellissima possibilità che mi ha dato, perché è molto bello abitare gli spazi che si incontrano, e ho proposto due installazioni nuove. Una sono le trampolle delle nevi, chi verrà a vedere la mostra troverà queste creature fatte di carte pregiate, tutte tagliate a mano, assemblate a mano, e questo stormo di uccelli trampolieri, a differenza di tutti gli altri, cercano la neve. Loro non migrano nei paesi caldi, hanno le zampe lunghe proprio per poter non affondare nella neve e camminarla, viverla, e sono creature molto sospese, molto etere, così come l'altra installazione che ho pensato per questa mostra, di questi petali al mio ritratto. È un'installazione basata su delle dahlie di dimensioni differenti, bianche e colorate, che si fondono e si confondano nello spazio della Maison Lavinia Turra. Che pur essendo bellissimo, comunque è uno spazio difficile da gestire per un artista, no? È uno spazio difficile. Sembra facile questa fusione, ma in realtà noi sappiamo, noi che pratichiamo questa cosa, sappiamo che non lo è per niente dover lavorare in uno spazio molto connotato. Esatto, però penso che tutti i lavori che sono in mostra si fondono e si confondano anche. Ci sono delle cose che sono solo per chi le vuole vedere, e quindi bisogna avere un certo sguardo anche sul mondo, uno sguardo che percorre gli spazi, e bisogna anche andare incontro a questi spazi e cercare, lasciarsi trasportare. E io lavoro molto con la carta, lavoro molto con tutto ciò che è effimero, con la leggerezza, con l'aspetto ludico, onirico delle cose, l'immaginazione aerea. Questa mostra è basata tutta su natura, botanica, insetti, fiori. E ci sono degli esercizi di entomologia fantastica anche, con nomi inventati per queste creature che si fanno scoprire, e nomi invece inventati ma latinizzati, quindi proprio come un entomologo nelle collezioni museali che ha creato proprio una collezione di entomologia fantastica. Però quindi tutte le creature sono vere, ma sono ibride o ibridate con degli aspetti inconsueti. Diciamo che i paesaggi familiari ci vengono restituiti in modo diverso rispetto a quelli che siamo abituati a vedere. Insomma, ti sei divertita un mondo a fare questo. Mi sono divertita molto, è stato molto impegnativo, anche con momenti difficili, perché uno dei grandi problemi che ho nei miei lavori è la fisica, cioè far star sulle cose. E questo è proprio una cosa che io mi ci scontro spesso. Però è stato molto bello e io sono molto felice del risultato. Dovrò assolutamente venire a vederla questa mostra. Assolutamente. Facciamo io mi sono incuriosita. Ah, certo. Anch'io. Tutti quanti. Facciamo una mini pausa musicale ascoltando un pezzo che mi ha mandato Mia, credo che l'abbia dedicato a suo marito. Sentiamolo. Quando hai immaginato questo progetto, più di 10 anni fa? Si intitola La Nuit ne finit plus di DJ Poolboy e Clio. Farà l'altro, mi fa pensare appunto a Fulvia, farà l'altro. Lo sai che io la settimana scorsa non ti avrei potuta invitare per via del silenzio stampa. È vero. Perché tu eri candidata alle europee. Esatto. e non è andata neanche così male, mi dice. No, sono contentissima del risultato, pur non essendo stata tra gli eletti, insomma. Io lavoro all'aeroporto di Bologna da 26 anni e faccio dei turni massacranti. Per cui dover organizzare una campagna elettorale in concomitanza con i turni è stato veramente difficile, girare per 4 regioni come una trottola, anche lì facendo dei turni, perché uscendo dal lavoro mi mettevo in macchina e mi incamminavo verso una città che non conoscevo. È stata un'esperienza bellissima perché mi ha dato la possibilità di conoscere i gruppi territoriali del Movimento 5 Stelle, comunque anche altre persone, parlare con la gente ai banchetti. Per cui ho conosciuto delle persone fantastiche, al di là di quello che si pensi, che man mano che si va nel nord le persone sono sempre più fredde. Invece ho avuto un'accoglienza fantastica a Trieste, a Venezia, sono stata benissimo e mi sono state anche riconosciute le mie competenze, le mie capacità. Quindi io, no, fra l'altro, io ti avevo conosciuto all'interno della facoltà di psicologia, se non sbaglio, per cui avevo preso per scontato che tu fossi una professoressa universitaria, invece era un incontro su Julian Assange, naturalmente. Sì, anche quella volta lì abbiamo fatto una sorta di seminario, io e Angela. Siamo state invitate dal professor Passini, che ringrazio ancora, che anche un mio quasi omonimo nonché grande batterista, Stefano Passini. Esatto, è vero. L'abbiamo avuto qui con i Ping Pong a parlare del suo album. Sì, lui è un batterista. Sembra un professore, mi sono colpito. Invece, secondo me, la sera diventa un rocchettaro. Esatto, assolutamente. No, abbiamo tenuto questo seminario su Assange e lui ci teneva particolarmente a fare una sorta di lezione ai suoi studenti e alle sue studentesse, e devo dire che il dialogo è stato il seminario è stato molto molto partecipato, perché soprattutto dalle studentesse abbiamo ricevuto un sacco di domande, erano veramente molto interessate. E poi dopo abbiamo trasmesso il film documentario Il prezzo della verità, e lì insomma ci sono state anche molte domande su come ottenere quella pellicola per mandarla anche in altre occasioni e portare a conoscenza la vicenda drammatica di Assange ad altre persone per sensibilizzarle, di cui io ho parlato 2 settimane fa, approfittando del fatto che un ospite mi ha tirato il pacco, per cui ho parlato abbondantemente di Julian Assange e della sua faccenda. Però magari è bello parlarne sempre. No, certo, però infatti fingiamo che qualche ascoltatore distratto non sappia di chi stiamo parlando. Chi di voi due mi fa un riassuntino sulla faccenda Julian Assange? La faccenda, provo a dire io qualcosa. Grazie Angela. Julian Assange è un uomo di 50 anni, tra l'altro il 3 luglio sarà il suo compleanno e purtroppo è il 5º compleanno in un carcere di massima sicurezza in Inghilterra. È un carcere così duro che i prigionieri inglesi possono rimanere soltanto pochissimi mesi prima del giudizio, di ricevere un giudizio. Invece Assange è lì da quasi 5 anni, in condizioni veramente pietose. Ma chi è Julian Assange? Julian Assange è un uomo che ha degli ideali fortissimi, ha sempre avuto, sin dalla prima infanzia, in quanto i suoi genitori erano 2 militanti delle Marce per la Pace durante gli anni della guerra in Vietnam. Si sono conosciuti proprio durante una Marcia della Pace, per cui dopo un po' è nato questo bambino. Purtroppo il rapporto tra i genitori è finito presto, quindi lui è rimasto con la mamma, che era un'attrice itinerante, quindi allora c'era il teatro di strada negli anni 70, quindi lui ha girato tutta l'Australia nelle varie tournée della mamma. È comunque un ragazzo che è stato sempre abituato all'idea della libertà, dell'onestà, ha sempre pensato di lottare contro la corruzione sin da quando era giovanissimo. E a un certo punto, siccome lui aveva una mente matematica, e quindi quando sono nati i primi computer, queste nuove attrezzature così straordinarie, lui si è specializzato in questo campo. Tra l'altro ha frequentato la facoltà di matematica con il massimo dei voti, però purtroppo non è riuscito per motivi personali a laurearsi. Attraverso questo strumento lui ha pensato di raccogliere informazioni per poter controllare chi gestisce il potere. Ecco, questa è la finalità maggiore di Assange. Cioè, noi deleghiamo delle persone anche nella politica, ma queste persone devono rendere conto ai cittadini del loro operato. E questo si era riproposto. Poi, per poter fare questa opera di controinformazione, Assange si è servito dei testimoni interni, cioè whistleblower, cioè sono delle persone che in ogni campo, quando vedevano delle cose che davvero non erano proprio coerenti con la loro missione, denunciavano ad Assange le irregolarità. Tramite il sito che aveva fondato, che è WikiLeaks. Che adesso, una decina d'anni fa, se ne parlava quasi tutti i giorni di WikiLeaks, esatto, per via di quello che veniva pubblicato. Adesso WikiLeaks è come se fosse silenziato. Proprio è stato silenziato. Per il fatto, in realtà non è silenziato, ma cioè, sì, funziona ancora, però è come, diciamo, per il fatto che Julian Assange sono praticamente 15 anni che è in carcere, sì, diciamo che WikiLeaks non funziona più, o funziona molto poco. Esatto, sì, sì. No, tutto questo poi succede quando Chelsea Manning dà ad Assange, cioè dà a WikiLeaks questo video in cui si vede l'esercito americano in Iraq che uccide dei civili con anche una certa freddezza, diciamo. E anche due giornalisti della Reuters, se non sbaglio. Esatto, sì. Guarda caso, una settimana dopo Julian Assange viene accusato di molestie sessuali in Svezia. Una trappola. Esatto. Cioè sarebbe stato arrestato se lui non fosse scappato in quel momento in Inghilterra e ha chiesto asilo politico all'ambasciata dell'Ecuador. Esatto, sì. E rimane lì 10 anni. Sì. Adesso possiamo aspettare che passi il 12. Passa il Ryanair che nel frattempo 333 180 94 94 se volete farci delle domande, anzi potevo approfittarne in realtà, vabbè, lo facciamo lo stesso, visto che sono le 20:30 faccio partire la pubblicità di questo momento, dopodiché continuiamo a parlare di Julian Assange. Un attimo che sì, certo. Ma si dice Dormino o Dormino? Dormino. Ok, no, lo chiamo Dormino. Dormino. È uguale. Sì. Eccoci qua. Corso spaziale. Corso spaziale. Ed eccoci ritornati a Coxo Spaziale, 492esima puntata, e appunto siamo qui con un sacco di ospiti, con Fulvia Panza e Serena Piccinini e poi anche Lavinia Turra e Angela Mastolonato, e stavamo parlando appunto di Julian Assange e di Davide Dormino che sta arrivando a Bologna con una scultura. Chi ce la racconta questa scultura? Cioè in realtà è più una cosa, una scultura, come si dice, è più un evento performativo. Sì, sì. Anything to say. Esatto. È una scultura di bronzo che sta girando per tutto il mondo praticamente. Ma esatto. È arrivata anche in Australia una volta, o sbaglio? Sì, sì, è arrivata anche in Australia. Sono diversi anni che gira per il mondo quest'opera, è un'opera itinerante, e ritorna in Italia dopo diversi anni, e da quando Davide ci ha parlato di questo tour non aveva idea di quali città coinvolgere in questo tour, per cui io e Angela siamo state le prime a dire assolutamente Bologna non deve mancare, anche perché ricordiamo ai spettatori che la città di Bologna ha concesso la cittadinanza onoraria, certo, a Julian Assange. Non tanto tempo fa. E questo non tanto tempo fa, esatto. 16 febbraio. Il 16 febbraio. Il 19 forse, prima del 20. Comunque a febbraio, e per cui noi cercheremo di coinvolgere l'amministrazione comunale in queste due giornate di tappa dell'opera. Io lo vedo domani, il sindaco, glielo ricordo. Bravo, bravissimo. Okay. Bravissimo. Noi abbiamo mandato un invito sia al sindaco Lepore che alla vice sindaca Emily Clancy e speriamo che ci facciano visita perché noi installeremo quest'opera il 13-14 giugno. Ah, ok. Mm-hmm. Il 13 giugno ci sarà l'inaugurazione alle 11:30 con una conferenza stampa. Mm-hmm. E noi auspichiamo che il sindaco Lepore e la vice sindaca Clancy vengano in Piazza del Nettuno a rendere omaggio a quest'opera, a parlare della cittadinanza onoraria e in qualche modo a prendere posizione sostenendo la liberazione di Assange contro questo accanimento ingiusto nei suoi confronti. E per cui è un'opera che abbiamo fortemente voluto. L'opera è partita con la sosta, una tappa, diciamo non proprio una sosta, è stata una tappa a Milano, dopo è stata quasi una settimana a Napoli e una settimana a Roma,

americani, e dunque che ne so, Instagram nel momento in cui scriviamo free Julian Assange ti fa shadow banning e il post non viene visto. Infatti anche i post di free Assange Italia sono veramente cliccati da pochissime persone. Secondo voi ce la facciamo? Allora, io devo dire che l'opinione pubblica nel corso degli anni è cresciuta tantissimo, c'è stato un interesse crescente verso la vicenda di Assange e lo abbiamo riscontrato in questo periodo in cui abbiamo creato questo comitato Free Assange Bologna per portare avanti questo tema e fare in modo che anche Bologna, anche i cittadini e le cittadine di Bologna conoscessero chi è Julian Assange e che cosa ha fatto con la piattaforma Wikileaks. Per cui abbiamo riscontrato un interesse sempre crescente. Poi chiaramente siamo tutti gruppi che si conoscono, perché abbiamo una chat comune dove ci confrontiamo, ci scambiamo le idee su quello da fare a livello nazionale. Adesso per esempio stiamo organizzando qualcosa per il compleanno di Julian Assange, che sarà il 3 luglio, e ognuno di noi nella propria città cerca di fare del proprio meglio, ma c'è un crescente interesse da parte dell'opinione pubblica, che noi siamo veramente contenti. E devo dire che tra le varie motivazioni, se Julian Assange si trova ancora nel carcere di Belvoir, cioè non è stato estradato, ecco, mettiamolo in questo modo, se non è stato ancora estradato è proprio grazie al fatto che si sia mobilitata l'opinione pubblica. Quando c'è stata la Corte d'Appello lo scorso febbraio, davanti alla Corte di Giustizia di Londra c'era una marea di gente, e noi in contemporanea abbiamo organizzato delle manifestazioni nelle varie città italiane, cercando una molto grande a Milano, mi ricordo. Milano, da Bologna per esempio abbiamo organizzato un pullman, eravamo in 44 e abbiamo fatto anche tappa a Modena, dove abbiamo preso altre persone e siamo andate alla manifestazione di Milano. Ma nello stesso tempo c'era un'altra manifestazione a Roma e a Napoli e anche a Catania, davanti alla prefettura, perché anche Catania ha dato la cittadinanza onoraria a Julian Assange. Diciamo che tra le nazioni europee l'Italia è quella che ha concesso più cittadinanza onoraria. Questo vuol dire tanto. Tanto è vero che noi abbiamo esportato questo modello dall'Italia anche in Europa. Ce l'hanno chiesto in Germania, come si fa ad ottenere la cittadinanza onoraria. Abbiamo scritto una procedura, l'abbiamo divulgata in Francia, in Spagna, in Germania, in Portogallo, e questo veramente ci rende molto orgogliosi e molto felici, perché vuol dire che la cosa è molto sentita. Fantastico, vi interrompo perché è il momento di questa cosa qua. L'angolo della menzione. Reggio Emilia. E allora, l'angolo adesso voi potete parlare perché tanto non vi sentiamo. E per cui martedì 11 giugno, che sarebbe domani, dalle 14 alle 18.30, il progetto Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition promuove anche quest'anno una serie di incontri nati dalla progettazione condivisa delle artiste e degli artisti ospiti nelle residenze diffuse nei 6 distretti culturali dell'area della città metropolitana di Bologna. Il primo di questi eventi, proposto da Letizia Lucchetti, artista residente nel distretto culturale Reino Lavigno Samoggia, a Madonna di Rodiano in Val Samoggia, è scuola di Santa Rosa, una lezione aperta di disegno a cura di Francesco Lauretta e Luigi Pressicce, che si svolge martedì 11 giugno dalle 14 alle 18.30 presso la Sala Guttuso all'interno della collezione permanente del Mambo. Ahimè, bisognava prenotarsi entro domenica, ma col biglietto della collezione permanente è possibile assistere ai disegnatori al lavoro. Questo è al Mambo in via Domenzoni 14 a Bologna. Dopodiché martedì 11 giugno alle ore 17 al Centro Manzi, all'interno dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Renato Barilli presenta il suo nuovo saggio dal titolo Protagonisti. Questo libro riprende il testo Prima e dopo il 2000, edito da Feltrinelli nel 2006, e consiste nel tentativo di inquadrare e storicizzare le correnti artistiche susseguitesi dagli anni 70 in poi. Questa è nella Sala Centro Manzi, all'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro 50 a Bologna. Dopodiché mercoledì 12 giugno alle ore 10 apre la mostra multimediale I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, nata per celebrare la figura di Enrico Berlinguer a 40 anni dalla morte. L'esposizione, a cura di Alessandro Donofio, Alexander Hobel e Gregorio Sorgonà e Carlo De Maria, arriva a Bologna dal 12 giugno al 25 agosto nella sala mostra del Museo Civico Archeologico e sarà aperta con ingresso gratuito tutti i giorni dalle 10 alle 19. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione 2000, Centro Studi Renato Zangheri, Associazione Enrico Berlinguer, in collaborazione col Museo Civico Archeologico, Settore Musei Civici Bologna e al patrocinio del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna. Tutto questo al Museo Civico Archeologico in via dell'Archiginnasio 2 a Bologna. Dopodiché mercoledì 12 giugno alle ore 19.30 lo squadro inaugura Nel mirino della memoria, ritratti di giornalisti uccisi in Palestina, personale di Gianluca Costantini. Gianluca Costantini, artista e attivista politico noto internazionalmente per il suo impegno senza sosta nel dare un volto e una presenza iconica alle vittime di soprusi. L'inaugurazione della mostra sarà introdotta da un dialogo tra Giovanni Boccia Artieri, sociologo dell'Università di Urbino Carlo Bo, e Justina Mocanu, responsabile di Amnesty International Emilia-Romagna. Tutto questo è allo squadro, alla stamperia Galleria d'Arte in via Nazario Saurio 27/B a Bologna. Dopodiché giovedì 13 e venerdì 14 giugno dalle 10 alle 21 appunto abbiamo Anything to Say, un momento di coraggio di Davide Dormino. Questo è in dove succede? In Piazza Nettuno, non in Piazza Maggiore, e fra l'altro io mi sono preso la libertà di copiare un pezzettino di sonoro di Davide che ci racconta appunto che cos'è il progetto. Eccolo qua. Quando ho immaginato questo progetto più di 10 anni fa, pensavo a qualcosa che dovesse avere un'utilità, come uno strumento da impugnare e usare. Immaginavo un'opera d'arte che potesse resistere alle intemperie contro l'essere umano, un'opera su cui far correre la nostra voce, un'opera che potesse cambiare il nostro punto di vista, un lavoro sulla prospettiva. Anything to Say è per tutti, non ha una bandiera, un credo politico o religioso, è un'opera itinerante, nomade e apolide. Anything to Say vuole essere un'arma per difenderci dai barbari, un'arma di costruzione di massa critica. Sì, perché il senso critico è forse l'unica arma, insieme all'immaginario, che abbiamo per difenderci da chi ci vorrebbe pigri, assuefatti. Un'opera che avesse un pezzo mancante, e quel pezzo è la sedia vuota, che ci invita a salire in difesa dei nostri diritti, della libertà di espressione, del nostro diritto di sapere. Quest'opera si completa solo quando ci saremo in piedi, perché a volte dobbiamo avere il coraggio di dissentire, di opporci, di essere maleducati, se vogliamo cambiare la società. Grazie. Ecco, Fulvia, mi dicevi che appunto chiunque può venire in Piazza Nettuno dalle 10 alle 21 tutti i giorni, sbaglio? Sì, allora invitiamo chi ci sta ascoltando a recarsi in piazza il 13 e 14 giugno. Noi saremo lì dalle 11 alle 21 in entrambe le giornate, e invito anche chi ci sta ascoltando a essere proprio parte attiva di quest'opera. Questa è un'opera interattiva, come dice il titolo, Anything to Say, significa c'è qualcosa da dire, per cui chiunque abbia qualcosa da dire a sostegno di Assange è invitato a venire in piazza e a salire su quella sedia. Fantastico, tutto questo appunto giovedì 13 e venerdì 14 giugno dalle 11 alle 21. In Piazza Nettuno, che fa anche rima. Dopodiché giovedì 13 alle 18.30 adiacenti al piacere di presentare Complex Geographies, Geografie Complesse di Elena Maffi, attraverso un talk con l'artista e lo screening dell'opera video frutto della sua ricerca, che sarà fruibile fino a domenica 16 giugno compresa negli orari di apertura dello spazio. L'evento è finanziato dal programma Italian Council 2023, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Questa ad adiacenza in vicolo Spirito Santo 1B a Bologna. Sempre giovedì alle 21, 13 giugno alle 21, in relazione alla mostra I giorni del fango, ora esposta nella collezione permanente che ricorda l'alluvione del maggio 2023, quattro fotografi, Andrea Bernabini, Richard Betti, Marco Parollo e Adriano Zanni, dialogano su quanto accaduto. Le loro parole si aggiungono così al racconto dei loro scatti fotografici posti in relazione a due opere di Carlo Zauli, riportandoci sguardi e sensibilità differenti. Alla serata parteciperanno anche Matteo Zauli, direttore artistico del Museo Carlo Zauli di Faenza, e Giovanni Gardini, direttore della raccolta Lercaro. Io che ho la R un po' moscia, la raccolta Lercaro è una parola difficilissima per me. Tutto questo appunto era la raccolta Lercaro in via Rivareno 57 a Bologna, giovedì 13 alle 21. E dunque abbiamo finito tutte le nostre menzioni. Questa settimana c'è un sacco di roba da fare. Volevo naturalmente sentire altre due cose sulla mostra di Serena, se non altro anche l'indirizzo di dov'è, gli orari di apertura, come si fa a vedere questa mostra, perché so che è solo su appuntamento, giusto? Sì, è su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Si può telefonare al 320 91 88 304 o contattarci su Instagram. In ogni caso i nostri ascoltatori sanno che da domani, andando su coxospaziale.blogspot.com, non solo troveranno la registrazione della nostra puntata di oggi, ma anche tutte le indicazioni per tutto quanto fino al 16 luglio, per cui c'è ancora un po' di tempo per venire ad apprendere. È bella questo orario dalle 17 alle 19, perché finito di lavorare puoi accogliere quelli che vengono a vedere le opere di Serena. Serena, hai qualcosa da aggiungere? Beh, io vi ringrazio, è stato molto bello, vi aspettiamo alla mostra. Fantastico. E poi invece no, tutti quanti ci vediamo in Piazza Nettuno, giusto? Cos'altro? No, volevo chiederti Fulvia, sì. ma come avete contattato Davide? Cioè, Davide è uno scultore piuttosto famoso che sta facendo queste cose. Come è successo l'incontro tra Free Julian Assange Bologna e Davide Dormino? È successo quasi per caso, perché noi facciamo parte anche di un gruppo più ampio che è Free Assange Wave Italia, che è un'organizzazione internazionale che raggruppa in sé vari paesi del mondo, che sono tutti attivisti e attiviste che si occupano di Julian Assange. In questa chat c'era anche Davide, che conosceva già Michelle, che era la nostra coordinatrice, per cui insomma pian piano abbiamo imparato a conoscerlo, e quando si è palesata la possibilità di questo tour dell'opera ci siamo fatti avanti subito io e Angela, e poi niente, da lì è partito tutto il progetto, che è un progettone, perché spostare una scultura che pesa qualche tonnellata non è una roba da niente. Sì, infatti. E poi avere il permesso di averle nelle piazze principali italiane, perché anche quello non è una cosa esattamente non è stata proprio una passeggiata ottenere i permessi per l'occupazione di suolo pubblico, anche perché abbiamo deciso di fare questa iniziativa in un periodo dove Piazza Maggiore e Piazza del Nettuno è ricco di iniziative, ce n'è una dietro l'altra. Ci hanno già detto che il 14 sarà anche una conferenza lì in Piazza Maggiore, dove c'è il cinema all'aperto, per cui ci hanno detto di non alzare troppo la voce, perché ci saranno, esattamente, per cui dobbiamo regolarci e andare d'accordo, perché in sennò tutto questo nel blog di domani permesso. Metterò anche il link al vostro crowdfunding, perché so che appunto tutto questo ha un costo non indifferente, per cui se volete sostenere la causa di Julian Assange troverete il link. Su costa molti soldi la mobilitazione, per cui abbiamo attivato questo crowdfunding per tutte e quattro le città del tour. Io volevo invitare chi ci sta ascoltando a seguirci sui social. Se hanno bisogno di informazioni possono mandarci una mail, freeassangebologna@proton.me, oppure sui nostri social, hanno tutti lo stesso nome, Free Assange Bologna, Facebook, Instagram e X. Fantastico, io vi ringrazio tantissimo. Angela Mastolonardo e Fulvia Panza di Free Assange. Grazie. Bologna, la Vigna Turra e Serena Piccinini, che appunto verremo a vedere la vostra fantastica mostra. Ahimè, il nostro tempo è finito, per cui devo lasciare spazio alla prossima trasmissione, che è naturalmente la fantastica Panta 80, e dunque vi saluto e vi ringrazio. Io ero Stefano W. Pasquini, questo era Coxo Spaziale. Naturalmente ci risentiamo lunedì prossimo, sempre dalle 20 alle 21, sempre sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko. Grazie mille a tutte quante. Grazie a voi, grazie per l'ospitalità. Esatto. Grazie. Chances you take, they are yours to make. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh now. Yet are you sure? Oh, are you sure? Mm-hmm, yeah. 'Cause the chances you take could lead you astray. Yeah, lead you astray. Oh yeah. Yet enjoy the ride. Enjoy the ride. It's the ride of your life, ride of your lives, your lives, your lives, your lives, your lives, your lives. 'Cause it's a part of your life that's unfolding. It's hurting you now. Free from that ride, I say. Make another choice, find another way now. Whoa, whoa, whoa, yeah. I do it my way, 'cause you do it your way. Enjoy the ride. It's the ride of your life, ride of your lives, your lives, your lives, your lives, your lives, your lives. Chances you take, they are yours to make. But are you sure now? Are you sure, yes? The chances you take, they could lead you astray. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. So enjoy the ride.